Paranormal Family, Redline Closet. Pompatevi questo mixtape anche se gratis. Oh. Sono paranormal, ma paranormal. La casa viene contro me, te magna come un animale, oh beh. Quanto ne vuoi allora tanto te ne ronca. Che mi sto impegnando, magari roppa sfonga. Li-fi, sto carinta all'aria tipo wifi. Ma dai, cerchi di imitarmi, ma dove cazzo vai? Tu continui, ma non ce la fai. Per me non vale niente se ho contrario roba bonsai. 8 barre fra te, col cazzo che dico tutto. La tua croce è venuta addosso, so se messi che vesti all'urto. Pronti all'impatto ma non all'urto. BPM danno gli infarti, ti lascio solo gli scarti. Ma me è capace di manipolarti. Dimenticarti che sei sotto scacco, è l'errore che puoi fare. Se nella testa hai pensato che scappo, mi sa che devi rivalutare. Prendo l'erba tramonto, mi sa che poi mi confondo. Fumo in faccia alla luna e la sera cade il mondo. Paranormal, paranormal, te magna come un animal. Paranormal, normal, quanto ne vuoi? Paranormal, normal, tanto te ne runga come un animal. Unita la mia cricca, basta che ci vedi. Non sono quello di prima, è inutile che chiedi. Non mi riconosci più, mi chiedi chi sono. Sono diventato questo, grazie a questo suono. Siamo quelli che mamma dice di non frequentare, ma adesso ascolta mamma e non ti avvicinare. Sul palco in sei non sappiamo cosa vuoi. Parli della gente sbagliata, allora siamo noi. Vinci contro me, underground. Perdi sta battaglia al primo round. Accendo con i miei amici un altro blunt. Tu fai consumatore della land. Parli male di noi, prendi solo botte. Tu vampiro su chi a cazzi scen solo di notte. Come amici fra, vedi come inizia. Tu strisci per terra come striscia la notizia. Scrivo rime, vendo stile ma tu non puoi farlo. Nel vinile c'ho la bile già di chi sa farlo. La mia gente se mi sente sa di cosa parlo. La tua gente se ti sente una volta all'anno. Canti con l'affanno, giri con il tuo branco. Se non mi comando, io mando rapper allo sbando. Non mi pieghi no, resto in piedi mo. Sembro eretico, fatti vedere da un buon medico, mi raccomando. Paranormal, paranormal, te magna come un animal. Paranormal, normal, quanto ne vuoi? Paranormal, normal, tanto te ne runca come un animal. Spacchiamo ancora sulla traccia, state attenti alla minaccia. Lui ti guarda e sbratta, vi spara colpi in faccia. 8 barre, 8 danni, siamo in tanti. Tiranni come frammenti di diamanti. L'effetto contrario dei calmanti. Ascolta la mia rabbia e mastica il mio suono. Mi trasformo, cambio voce ed esplodo come un tuono. Come un guerriero che perde le sue spade. Affronto il mio destino e chi l'ha scritto poi se ne cade. Frate a me, a livelli rap, stammo in stappana da bottiglia. Ogni piezza in un festino, su cingam che mi sbattendo un rap game. E faccio zumba capo con Marrash, rin dei rave. Da quando calco primo palco, lui ti sembra come Falk. Mai toccato Borro Talk, Ida fa sempre di pack. La musica non la considero passione, perché sito con Malessia sembra solita canzone. Paranormal, paranormal, te magna come un animal. Paranormal, normal, quanto ne vuoi? Paranormal, normal, tanto te ne runca.